10 watt col K. Dopo cambiare scrivania, mettere 600 watt per fare che cosa? Per non capirci uno con l'altro. Ah, e io ci avevi quella radio là, te l'ha detto anche Marco, poi ho detto anche Tino l'altro giorno che non ti ha mai sentito così bene, c'è sempre vende esperimenti. Lascia quella radio che ti ho detto io, che è bellissima. Sto usando quella adesso. E cosa hai toccato? Io ti sento leggermente sciaturino, boh, non lo so. Sì, aspetta il lineare, cosa boh, ma sì, ma a un certo punto. È staccato, vuoi che te l'attacco? Ecco attaccato, vedi la differenza? Adesso attaccato là, vedi la differenza? Sì, sì, sì, la vedo la differenza, allora lascialo stare attaccato. Lascialo stare attaccato, che qua non cambia assolutamente niente, cambia solo la radio, perché già sei a fondo scala, cosa l'attacchi a fare? Boh. C'è una mania di persecuzione questo degli amplificatori città, una prova si può fare di tanto, cioè, minchia ragazzi. Manco per chi ci ascolta, cazzo, ha ragione, che lui dice che una cosa entro a fare se non faccio altro che ascoltare, mi ascolti, mi senti, guarda il segnale, dammi un controllo, qui, là, bim, bum, ma come ti arrivo, come non ti arrivo, mamma mia, dai, facciamola bravi, avanti Marco. Beh, io ne ho 10 puliti. 10, per non stare alza abbassami, 10. Sono 11, 12 modulati con lo strumento serio, però col filtro che io non te l'ho detto, lo metto per eccesso di zelo, per cautela, mi ruba un watt e mezzo. Comunque 10 dai, puliti. Almeno mi rifaccio della perdita di 50 metri di capo. No, vabbè, ma tu non hai bisogno di attaccare nessuno perché 30 con la mano. Cioè noi prima arrivano 9 più 30 con linea attaccato, tu sei 9 più 30, quando attacchi sei 9 e 40, ci sei Antonello, Roberto, poi ci sei tu, segnale più alto, capito? Non cito Fabrizio perché entra poco, anche lui c'è un segnalone qua, quindi. Però quelli che insomma entrate normalmente, tu sei il terzo che mi arriva fortissimo. Va bene, era lo stesso segnale di Luca Frippa, lui c'ha, non so, arriva fortissimo qua, non so se la zona, se non lo so, comunque, e lui non usa lo stesso, il lineare non è, quindi, è questione di zona, andiamo avanti Antonio. Ehi, sono rientrato. Ehi, ok, aspetta un secondo, mi sto mangiando la camera, non mi sto arrivando. Ehi, avanti Antonio. Capa, ti dà messo! Se mi sente di traverso, sai, non ti posso fare con la modifica. Quindi, domani, cerca di essere puntuale. Chiamami. A che ora? Alle 10, naturalmente, mi cade otto il vaccino. Ok, da. La base alla prima parola, sei tranquillo. D'accordo, non c'è problema, poi facciamo le prove, là. Alle 10. Adesso mi sto mangiando le caramelle in muco. Avevo un pacchetto, cazzo, ma esatto, non me li mangio. Ho trovato le distanze e siamo a posto. Ma io ho compreso che sei arrivato. Dimmi che cosa, là. Ehi, devi mettere la resistenza per aumentare la potenza con l'ignore che c'è Antonio. Beh, ci sei arrivato. Sì, perché sono venuto a dar a piedi, l'ho fatto prima di te quelle cose, quindi. Sta attento, bravo mio Antonio, sta attento, la resistenza te ne ha un bel freddo. Che preoccupiamo da un momento all'altro, che coglionate che fate, cazzo, se quella, vabbè, non metto lingua, fai Antonio, fai, avanti Marco. Oh, aspetta Claudio, non sai, ho fatto quella modifica, tu cosa mi hai detto? Guarda, hai fatto quella modifica, alzo esce, quando sei attaccato esce molto più forte di quando sei liscio, addirittura, anche se c'è meno watt, ti ricordi quella volta? Ti sei rimasto anche tu, cazzo, libito, dice, non può essere, dice, cosa ho fatto io? Ho messo sempre delle distanze e basta, non ho fatto altro. Ci ho fatto l'altra volta la bobina, la prima e la seconda, le B150. Solo quando ho fatto altro. Sì, ma il B150 non ha, non ha variatore di potenza, come lo sai meglio di me. Quando tu le metti quella resistenza, non fa altro che serve per l'ingresso praticamente, cioè se tu le dai per dire 5 watt non satura, ok, scendi nelle 10, satura. Se le metti con la resistenza, le dai 10 watt e non vai in saturazione. Ma non è che aumenti il doppio della potenza, se dai 50 watt ne può dare 60-70, non è che ne dà di più, perché il finale è sempre quello, il mio Antonello. Capisci cosa ti voglio dire? Quella modifica lì, se ben ti ricordi, era stata fatta su un B300, ok? Su un B300 che c'è il variatore di potenza, e allora la vedi la differenza, ma su un giocattolo come il B150, che c'ha 80 watt scarsi in AM, non se arrivi a 100 è anche troppo, ma la sostanza non cambia, capisci quello che voglio dire? Mi provate che cambia la radio, solo quello mi interessa a me. Ti capisco la radio, tu mi hai detto un giorno, cazzo, non è possibile, tu non stai solo di venire, mi hai detto, se ti ricordi bene. Metto la temi, dice, esci molto più forte di essere, cosa usando, e tu usando il bicio 50, che mai sentito la radio mangiare, dice, molto, ma molto più forte, come se non ce l'avessi, mi ha detto. Come se avessi un microfono amplificato, se così voglio fare anch'io, tutto lì, non è che cambia qualcosa, no? Se sono 10 watt in meno, quelli che non mi interessa niente, mi interessa che cresca di radio bene, ma veramente bene, amplificato, che sia come si deve, capito? Non sia saturo, e basta, tutto lì. Ok, aspetta. Allora, la cosa era che dovevamo mettere un po' a posto, perché avevo detto rifacciamo quella modifica e va bene, perché ha un problema che molte volte mi rimane relint incantato. Ecco cosa vogliamo fare, vogliamo sistemare quello e poi gli vogliamo fare quella cosa lì, tutto lì il discorso. Scusa, allora io pensavo che Antonello mi stava dicendo appunto che mettendo quella resistenza aumenta di potenza. No, quella resistenza serve per variare l'integrazione d'ingresso e basta. Nel senso che, detto in parole povere, quando tu aumenti la potenza perché la viene 3 e ne dai anche 7-8, non satura. Ecco, quello è molto importante, quella è la modifica che devi fare tu, perché quando tu attacchi lineare, anche adesso che si è agganciato, perché io vedo lo strumento, cioè vedo lo smitter, ok? La radio non è bella, non è bella, è semicompressa, è gracchiante la radio, quel microfono esce bene, se tu le dai un abbinamento, se tu lo dai un abbinamento d'ingresso, allora esce molto bene, ma così non mi piace la modulazione, non sento questa amplificazione bella, chiara, poi Marco mi può correggere, Antonello mi può correggere, io ti sento così e ti sto ascoltando, sto commutando per capire se è un mio problema, sia col 140 che col 430, con le due colonnine esterne della Kenwood non cambia assolutamente niente, sei gracchiante, la radio è brutta quando attacchi, quindi o decidi di modulare liscio in città e lo attacchi quando ti serve, come ti ho già spiegato, oppure fatti fare questa modifica che riesce un pochino a darti la modulazione più chiara. Marco? Guarda, così dovrebbe andare bene così, ora va bene così. Adesso meglio la radio, sono stato io uno scemo, scusa, che avevo una potenza quasi al massimo. È meglio di prima, ma non è bella come deve essere, capito? Non è bella come deve essere. È bella quando tu chiudi tutti i watt, oppure lasci i watt per dire a 5-6 watt a metà, e stacchi lineare, allora la radio è bella. Così a me non piace tu. Lo sai, io sono schietto quando parlo e dico le cose in faccia, poi chi si offende e non mi interessa niente. Io sono abituato a sentire la gente bene. Tu non esci bene perché o le dai troppa potenza d'ingresso, o stacchi lineare e aumenti tutta la potenza della radio. No, non funziona così, capito? Devi uscire bene. Adesso provate a fare questa modifica con la resistenza d'ingresso per vedere se riesci ad attenuare un po' la modulazione e poi vediamo. Ma comunque tu esci bene quando esci liscio, ok? Altrimenti io non ti ascolto bene. Avanti, Marco. Sì. Volevo chiedere a Antonello, ma Antonello, cos'è quella resistenza ceramica? come l'avevamo messa nel B150 che ha avuto anni fa. Bravo, ci sei arrivato. Se ti ricordi bene, quando ho attaccato la linea, non so, cioè i watt non sembravano neanche quelli, e la radio che aumentava, il discorso è quello lì, sembrava non avere neanche lineare, sembrava che avevo un microfono amplificato, ti ricordi Marco? E quello voglio fare io, capito? Abbinare l'apparato con lineare, il discorso è quello, cioè i watt dell'apparato con lineare, che è una cosa allucinante. Infatti credo, se me l'ha pigliato, dice, non è possibile che tu c'è un lineare attaccato, dice tu, cioè, con l'attacco, dice, è una cosa, c'è una radio che ci ha avvicinato, sembra amplificata addirittura, quello voglio fare, capito? Come ho fatto sempre, ho fatto così io, 15 watt d'ingresso, allineato bene all'apparato stesso che si usa, esce veramente bene. Il discorso è quello. Sì, la modifica me la ricordo, però ricordo anche che il B150, Antonè, più di 8 watt non dava, erano abbastanza scarsinimi. E poi non era pulita la modulazione quanto l'RM Italy, quello piccolino blu solito, no? Quella è la più pulita, con modulazione, e anche quello gli aumenta la modulazione. Naturalmente gli metti un mic normale, mettendo il mic normale ti incrementa un po' la radio. Io non metto mai amplificati, se avete notato le rare volte che provo linearetti, ma a livello di prova mai metto amplificati, perché anche quello può contribuire a saturare in fin dei conti, perché poi i picchi salgono, magari col mezzo watt in più te lo dà, col watt in più te lo dà e contribuisce a saturare. Bene, vai Claudio. Sì, ma sono discorsi che conosciamo già, che abbiamo già fatto. Io ho un B300 che mi eroga quasi 300 watt in AM, quasi 300 è una parola grossa, 220 watt, 230 watt in AM, ma lo posso usare sino alla quinta marcia, quinta potenza, perché in sesta inizia a saturare, capito? Alla fine mi sono rotto le palle, ho fatto una spesa, ma c'è un amplificatore con le controballe, cioè che non mi crea problemi, già l'hai visto, io lo uso a minima potenza, in prima e seconda marcia, tu non ti accorgi se io lo sto usando, vedi solo il segnale, ma il segnale mio arriva bene a tutte le parti, quindi, capito? E così vuole fare Antonello, però ti ripeto Antonello, non andare a toccare il sistema di ingresso sullo stadio finale più di tanto, perché altrimenti può creare problemi con le lineare, ti brucia il finale, capito? Metti quella resistenza e provalo così, con la sua radio però, non lo provare con la tua, devi portare anche la radio e il lineare per fare l'abbinamento, perché lì c'è un abbinamento di tutte e due le cose da fare, altrimenti se lui lo usa con la sua radio o quando lo porta qui a casa tua, il problema non cambia, capito? Non so già di quello. Cosa Antonio? Che non so già di quello, devo abbinare il lineare all'apparecchio in modo che lui riesca a chiamare in radio, che amplifica la radio, non che diminuisca. Capito? In pratica lo do con io l'attacco per dire. Però c'è una bella amplificazione in radio, sembra che ci abbia, cosa ti posso dire? No, non 200 watt, ma 400 di radio. Il discorso è quello lì. Ti ricordi un paio di anni fa, ti ricordi che tu mi hai detto, dice, non è possibile, tu stai dicendo 50, ti ho detto, scusate, dicevo 50, esce così, purtroppo è così, da normale, il microfono, adesso attaccato, sembrava amplificato, grazie, sembrava un segnale, diciamo, 10 libri di guadagno, ma allucinanti, cazzo, sembrava che avesse attaccato chissà che cosa, una radio veramente il doppio di quello che è, cioè, in pratica era, il discorso è quello lì, te lo dico anche tu, grazie, perché la verità non è che ti succedono balle. Voglio lineare in pratica l'apparato con lineare e non si riconduce tranquillo, basta, il suo però non è mio, non l'apparecchio mio, il suo, l'apparato suo, fate vedere, portami l'apparato tuo, ti porti il lineare, e ti faccio il lineamento, perché ho fatto così, per forza, col tuo microfono e basta. Certo, me lo ricordo, perché io ho visto segnale, ho detto, ma cosa hai fatto ancora? Il segnale era un alto, perché eri oltre il fondo scala e sopra il DB, e la radio era bellissima, di solito quando tu attacchi mi va in saturazione, quindi la domanda era normale farla, tu mi hai spiegato che cosa avevi fatto e cosa stavi usando. Certo, me lo ricordo perfettamente, non è un problema, ci mancherebbe altro. Spero che quello di Antonio esca così, perché Antonio incrementa qua, da 9.10 a 9.20 quando hai lanciato, però le porta via la radio, non è bella. Adesso se fa da 9.10 a 9.20 però mi dà una radio bella, io sono contento, ci mancherebbe altro. Avanti a tu. Kappa, sicuramente è un crack. Quello lì vuole riguardato anche perché ho problemi. Lui mi ha detto che lo sa che cosa è. Cioè praticamente molte volte cosa succede? Che mi rimane incantato, mi rimane. E lui mi ha detto, Antonello mi ha detto che bisogna toccare non so che cosa e ritorna a posto. Capito? Anche per quel motivo lì lo dobbiamo vedere. Aspetta, spiega bene Anto, cosa vuol dire piantato? Allora, praticamente mi rimane bloccato le cose, il relì delle cose, dell'amplificatore, rimane attaccato e non mi torna, capito? E c'ha qualche problema, c'ha. E qua, infatti io lo devo sistemare, anche per quel motivo lì. Antonello sa che cosa è. Ah, solo il relè dico, no? Perché se fosse auto-oscillazione che rimane pure in trasmissione, a me l'ha fatto dalla macchina, rischi che partano finali e tutto, però non è il tuo caso, se è solo il relè, magari c'è contattini che si incollano, che ne so, da cambiare, roba semplice comunque, dai. A me mi è andato in auto-oscillazione lineare in macchina, anni fa, perché avevo rientro di RF, sentivo, mollavo la portante, sentivo sto QRM altissimo in tutti i canali, praticamente il lineare era rimasto in trasmissione 27, però con a caso, cioè non con una frequenza precisa, buttava mondezza dappertutto. Per fortuna me ne sono accorto e ho proprio spento e staccato, se no rischi che di bruciare tutto e poi si surriscalda pure. Vabbè, non è il tuo caso, è un'altra cosa quello lì. Beh, c'era anche Gianni il profeta, perdonaci, tra una parola e l'altra un po' abbiamo fatto girare male la ruota. Gianni, ci sei ancora? Aspetta Marco, guarda che la stessa indica cosa, non cambia un cazzo. Allora, la questione è questa, è l'auto-oscillazione più che altro, si chiama auto-oscillazione, cioè in pratica il relè quando fa un rientro si innesca da solo, hai capito? E qui è come se fosse uscendo in trasmissione e ti ritorna l'altra frequenza dietro, il discorso è tutto lì, all'interno. Solo quello, non è altro. Se tu segni il lineare, quel problema non ce n'è più e te lo fa o c'è stazionarie, questa foglia qua, oppure c'hai qualche altro problema di allineamento, capito? Allora si toccava una volta, va bene, il bici 24 si toccava una vettina dorata, adesso non so se c'è più la verità, ma se no la bobina. C'è una bobina, c'è in pratica, non se l'arco si finge, il discorso è quello, tutto lì. Quella è una cosa un po' più seccante, quella un po' pericolosetta, ti può far danno ai finali, non so se può far danno al baracchino addirittura, però è da evitare, dai. Se capì? Ah, ma chi è che vuole entrare? Avanti! No, sono io, ho cambiato radio, sono passato all'altra base. Che diversa che no, c'è Massimo, sta chiamando, ma esce, non esce radio, è basso oppure zero proprio, non... deve mettere mano là, deve far revisionare il microfono, dai, quello che se non, non usciamo. Ehi, Marco, questo è diverso, un però esce bene di radio, dai, microfono normale, tutto a posto. Va bene, avanti a tutti. Noi a 10 voti, chissà. La già va bene, ma non alla 48, alla 48, no, questo è un 3009 Colt, questo, capito? Questo è un 3009 Colt, già da 2 watt a 40 watt di modulazione, va. Così è Colt. Chiudiamo, beh. Hai capito? Bella storia! Cosa, Massimo? Non va bene? Ho detto bella storia! Bella storia, sì. Questo è un 3009 Colt, ma Colt però, è colto veramente. Questo è fatto da Mr. Bambo, non so se tu lo conosci, visto che sei camionista, ma è una scheggia del radio. 2 watt, tanto 40 watt modulati, 2 watt e mezzo di portante, 40 watt modulati, capito? Ecco, queste sono radio, microfono normale, capito tu? Sei re, complimenti, mi stai facendo brillare l'antenna. Allora tu dici da sotto, io sono liscio, se attacco allora ti scoppia tutto. Sto scherzando, Massimo, ciao, buonasera. Hai capito, Antur? Questo è Baracchino Colt, è quello appunto ultimo arrivato. Gamma, è bello, Ah, avanti un biliardo. Vediamo questo alimentatore qua che ho preso. Vediamo se va un po' meglio, se è più silenzioso. L'ho preso di un'altra marca, ma sarà sempre come a te, sì. Proprio quello è più silenzioso. Io sento una ventolina, adesso te lo mando spento e poi te lo mando acceso. È tutto illuminato, qualsiasi cosa si illumina, anche tutto, tutto, tutto. Non sei uscito in questo passaggio. Ah, il Marcolino. Che è? Natalino? No, mi è sembrato Fabrizio mascherato. Tu sei Fabrizio? No, se lo sogno mascherato di arrivare sul P30. Non ho visto il segnale. Questo c'è lo smitter tutto rosso, quindi no. Siamo un inchino, davvero. Pensavo dalla voce, 9.30, no? Va bene, avanti Antonella, riprendi. Spalliero. Spalliero, e chi è? Caro. Si sente il telegiornale, chi è? Non ti ho riconosciuto questo baracchino. Gesù voglia, io sono già lui. Ah, vedi che già è lui, che è Fabrizio, ma mai lo vai vedere. L'ho sempre detto, sei cuoco, ma è tu. Natalino sono. Già lo so come sei Natalino, ti ho visto dallo segnale. Ciao Natalino, buonasera. Sembravi Fabrizio mascherato. Adesso già ti ho riconosciuto, e beh, Tatalino, cuocuomane. Ciao bambolino, bamboletto. Aspetta che bambolino sta guardando la radio che gli ho mandato, questa radio qua, va bene, va bene. Comunque Marco, tutto si può dire, però chiusa così, la metti da combattimento al 45, però chiusa così la radio va bene. È apprezzabile, considerando il fatto che un microfono normale, la radio è molto bella, mi hanno detto. Bella, amplificata, chiara, forte. Sì, sì. Sì, ma infatti io, sai cosa... cosa fa venire veramente il mal di testa? Non le modulazioni così forti, eccetera, ma questo effetto eco, questa wow, cosa vuol dire? Anche ascoltando solo 45, così per passare il tempo, sentire questo eco, continua a ripetere all'infinito, è stancante per l'orecchio. Questo è di lusso. Infatti anche Luigi, quando usa apparecchi del genere, lui esce di lusso e non è eccessivamente amplificata. perché ci sono modulazioni sul 45, non di Sassari, non di Sassari, ma di fuori, quando c'è propagazione, sono veramente, ma veramente, e aggiungo, ma veramente spropositate. Cioè, lì è proprio al limite dell'inudibilità. Lo so, ma infatti io no. Fare qualche prova, un passaggio va bene, ma non puoi fare questi occorrenti. Sei antico! Fine, rompere palle anche a me. Lo chiudi, questa è la bellezza che lo chiudi e... ed è normale, capito, con una bella modulazione, comprensibilissima, forte, chiara, eccetera. E sono belli per quello, se le cose le fai bene. A me, ad esempio, una che ne aveva non potevi toccare niente, dove gli ci uscì, capito? E alla fine me l'avevo venduta a un camionista proprio che lo usava nel camion. Però questi sono belli per usare a casa e usare anche nel 45, in camion, in macchina, dove vuoi, capito? Perché c'è un po' di potenza. Avanti, motopompa, io altre 10 minuti, dai, circa, e poi vado a pappare. Che palle. Ma chi è? Andiamo con Massimo. E continua a non uscire di radio. Massimo, abbi pietà. Massimo, quando arrivi a Castello, quel microfono, mettilo sotto la ruota. Cappagatta, non sotto la ruota. Sotto le quattro ruote. Mettilo sotto le quattro ruote, allora, perché non serve a niente, devi metterlo a posto, perché quando stai parlando ti manca la modulazione, capito? Non va bene, non riusciamo a capire quello che dici, è tutto spezzettato a metà. La pagata. Che ha pagato a pigliare in gomma di Bossa Ma, come dice Tattalino. Questa è la Linco, Claudio, come va? Sempre Mike normale, di serie, perché te l'ho detto, non... troppi microfoni diversi, prese microfoniche a 4, a 5, a 6, a 7, RG 45, quindi tanto vuole lasciare quelli originali. 1, 2, 3, 4, 5. Beh, la bella modulazione, ma tu esci bene con il microfono normale. Hai capito che io l'altro giorno ho detto non compro radio perché poi non le puoi modificare. Non compro radio se non hanno il connettore a 4, perché io ce li ho tutti a 4. E tutti i microfoni, bene o male, li posso scambiare, tranne uno che è quello del patch, che c'ha la connessione inversa, perché il DAC c'ha il suo, c'hanno tutti il suo microfono, capito? Te li ho mandati, no? Però quando tu usi un Pony 23 canali che c'ha l'attacco a punta, a 5 punte, non puoi modificarlo, lo devi lasciare così. Quindi ho dovuto prendere un altro microfono, quello delle Gain, che c'ha l'attacco a 5 punte, e usarlo lì fortunatamente, senza toccare niente, capito? Va bene, Antonello non ha ripreso, riprendi tu Antonello. Sono entrato, dimmi tutto. No, niente, te l'avevo rilanciato, se vuoi riprendere, se no riprendi Antonio. Stavo mangiando cipollina la vita, un assaggio fatto. Una parola di cipollina e stavo provando com'era. Qui sembrava buona la verità. A volte vuoi entrare, con cui voglio andare a riprendere. Oh, che c'ha zio ditta, Antonio. Non ho capito. Ha già detto che c'ha zio ditta è buona. Cipollina, ho detto zio ditta. Ma in agrodolce? Io ho detto sassareso, zio ditta. Cipollina, dai. Ah no, la zio ditta è la zioba. E appunto. Di quello che ho spinto, quello che sta parlando con cosa. Lo accetto. Molto meglio in agrodolce, Antonè. Vabbè, quello che mi hanno dato, cioè, ho comprato più che altro. Agrodolce o dolce agro? Bene, bene. E quindi, così è. Stavo sentendo addirittura, Claudio, quella storia della scintilla, della cosa di Gianni. Ma quindi lui ha perso la cortocircuitazione pure, c'è qualcosa che non è venuto a mancare, oppure il cavo che fa da condensatore, così è. A me non me l'ha mai fatta, lo sai, da 6 anni che ho questa antenna, mai, io la stacco molto, quindi me ne sarei accorto di eventuali scintille. Mai fatto una cosa del genere, niente, è sparito. Marco, sono qua, sono qua. Io ti dico una cosa, ti dico. Ma una volta che ho visto quella scena lì a Banana, prima mi ce ne voleva imbarcare una, poi ho detto no, no. Vabbè, avete parlato piccato in tre. Comunque, oggi mi è arrivato un su Facebook, la verità. Mi è arrivato un link, in pratica, da oggi in poi, dal 2021, perché c'è la verità, il latte pasteurizzato, come dire. La 27 non deve pagare niente, il trattamento ci vuole concessione, invece il latte pasteurizzato, quello della mucca, stiamo parlando più che altro del PMR, ragazzo si difende. Fate festa la mattina, la torta a tutti, perché non c'è più concessione, non c'è niente, non dobbiamo pagare proprio una fanculo. Quindi possiamo parlare tranquillamente dall'uno dove volete voi, da oggi, capito, da oggi. Colline c'è le sniffe, capito, vai Marco lì. Cosa c'è Antonio? Il delirio, non capito, ha mischiato il latte con la concessione che non si paga più, da un anno quasi. No, in pratica è arrivato oggi, la conferma è arrivata oggi, in pratica non si paga più né concessione, e tantomeno nulla, non c'è proprio né concessione, tantomeno si paga la concessione, sia per la 27 sia per la questione del PMR. Quindi bevetevi il latte, bevetevi quello che volete, acqua. Ma birra ci beviamo! La mattina. Siamo liberi e tranquilli, nessuno ci rompe le balle. Il discorso è quello. Perché chi te le rompe le balle? Scusa, hai sempre fatto i suoi ti piazzi. Beh, io non ho pagato concessione, infatti. Non le pago, non mi interessa. Io pago quella da Radio Amatore, che non, tra l'altro non ho neanche pagata, e non so come così ne pago, figurati. Paghi su mi affutti. Avanti Marco, cosa stavi dicendo? Aspetta, non ci vuole manco la concessione per gli animatori, hai capito? Quindi non paghi un cazzo. Quindi è già eliminata subito. Ma stai dicendo, Antonio, è finita. La 27 non si paga. Ma la banda amatoriale devi pagare, io le 5 euro l'anno le ho sempre pagate. Quest'anno non lo so se ne pago. Non lo so, però adesso vediamo. A fine anno, a fine gennaio ci penso. Cosa hai detto Marco? Non me ne ricordo, ma prima di tutto il discorso di Gianni, della scintillazione dell'antenna, che ha perso la cortocircuitazione probabilmente. Guarda, non lo so, non ci voglio più entrare in questo discorso, c'era un quesito stasera dedicato a questo problema che può succedere a tanti altri, e sembrava se ne stesse facendo una polemica, addirittura c'era qualcuno nascosto che sicuramente non era d'accordo, quindi non mi interessa, io non ho questi problemi, gli altri si li risolvono se si li vogliono risolvere. Rimane il fatto, lo dico, lo sottolineo, che le reggi 58 è un cavo di merda, non serve a niente, serve per far giocare i pupazzi, non è un cavo da poter attaccare amplificatori, da poter attaccare microfoni seri, radio seri, eccetera eccetera. Questo è il mio pensiero, poi ognuno fa quello che le piace. La verità si inizia, io mi sono baciato un finale, quindi con le 58 a un certo punto. Quindi oggi che cazzo c'entra? Ci vuole il 58 modello Antonio, più che altro. Ma cosa ne so? 1500 watt, che è il bianco, cioè al centro è bianco, e anche schermato doppio addirittura, non solo l'altro. Quindi a un certo punto è la verità. Vabbè, non è che bruci i finali per il cavo, diciamo che tu stazionari forse non le controlli scrupolosamente come magari le controllo io scrupolosamente, però sai cos'è? Lo facevamo bene 20 anni fa, 30 anni fa, di qualità, con molta calza. Adesso te l'ho detto, come sono andato a spellare un cavo veicolare che ho già da 10 anni, era integra la calza come vuoi tu, però andava, veniva via tirando col dito, senza tirare a forza, mi veniva via la calza, si sfaldava sotto le dita, una cosa mai vista, uno schifo. Vai Antu. Cappa, spettacolare, è silenziosissimo questo nuovo che ho preso, è della, che marca è? Cavolo, Lino si chiama, molto più silenzioso dell'altro. Ma che lineare è, Anto? Lineare di quelli, come si chiama? Lineare switching oppure a trasformatore? No, allora ho voluto provare a prendere un nuovo alimentatore, capito? Perché quelli fa un casino qua con la ventola. Cavolo, l'ho provato, ma manca paragone all'altro, L'ho pagato appena appena di più. L'ho pagato, ma non fa casino di niente. Da muraia? Sì, sono quelli con la cosa bianca, sono quelli con la confezione bianca, non quegli altri. Sono quelli con la confezione bianca. Ma non fa casino di un cazzo, cioè proprio silenzioso. Bella mossa, Ma qual è, Anto? Quello in alluminio, quello brutto, quelli normali che si comprano, quello lì, Sì, però questa è un'altra marca, cra. Adesso lascia perdere che c'è acceso quello là. C'è acceso quello là. Questo è di un'altra marca, ma non fa casino di niente. Non fa. Questo si chiama Lino di marca. Rimane diverso, l'ho pagato appena appena di più. E quello là l'ho pagato un po' di meno, ma quello là fa più casino la ventola. Questo è... non fa casino. No, vabbè, io ne ho due di scorta, eccetera, però ti ripeto, non fanno nessun casino, nulla. Le ventole sono abbastanza silenziose, tutto, e funzionano bene, dai. Addirittura uno è da 50 ampere e uno è da 30 ampere. Viaggiano bene perché io lo usavo col B300 da solo, andava benissimo, non ti ho capito, quindi non è detto che siano tutti uguali. Il mio è silenziosissimo, va bene, ottimo per la truppa. Va bene ragazzi, dai, io per il momento stacco, se ci siete ci sentiamo dopo. Buona cena a tutti, ciao Natalino, Marco, Antonio e Antonello, dai. Eventuali ascoltoni. Ci sentiamo dopo più tardi. Il cambio per Marco. Vai Marco. Massimo, discriminazione italiana. Ciao Claudio, dai, sentiamo, buona cena. Buon tutto, ci sentiamo quando capita. Ok? Vai Antonio per i saluti. Capa, chi è uscito? Che mi sono distratto un attimino. Claudio, credo stia andando a mangiare, a mandigare. Cappa, salutone, che ce la risentiamo. Buon pranzo, buon tutto, ciao ciao. Avanti, avanti. No, ero io che ti ho salutato col bifi, ciao. Ciao ciao. Eia, Antone. Prendi tu, è l'ora della caffeina. No, che caffeina, decaffeinato, che caffeina, se no mi si schianta la pompa a lungo andare. Vai Antonè. Sono entrato, dimmi. Che succede? La Mercedes con una palla di vano la detta. L'ho pensato per scaricare la lunatina, invece mi è arrivata in terra adesso, capito? Da buttare più che altro. Ecco che a me, avrei saputo aver sistemato come si deve, l'ho fatto in fretta e eccetera, quindi a un certo punto me ne c'è niente. Oh, non sovramodulare, aspetta il tuo turno. Televisione, caffeina, stavo già sfaventando a un certo punto. Chiedo scusa per non avermi risposto. Aspetta, Anto, hai notato che Antonello è crollato di segnale? È sceso a 9 o meno di 9, oscillante. Sì, perché sono liscio. adesso l'ho attaccato, va bene adesso? Ma Rado, non che sempre voce, non per domani, no, qua è sempre un bel forte. Beh, per un attimo, in due volte l'ho fatto almeno. Adesso va bene comunque, là. Quello poco bene, ho dovuto attaccare di corso, capito? A un certo punto ho dovuto parlare tutto. No, Antonio, aspetta, non ti seguo. Non c'entra lineare, è come se fossi sceso di segnale per l'antenna, che ne so. Tant'è che ti ha passato, infatti, Massimo, da Predanietta. E Antonio gli ha detto di aspettare il turno. Antonio, riprendi tu, dai, io adesso veramente faccio il caffè per mamma e per me. E quindi stacco, per oggi stacco, ok? Dai, sentiamo l'altro giorno. Vai Antu. Cappa, Massimo, vieni avanti adesso. Massimo. Agappa, qua Massimo, passo. E trovata la pizzeria a mangiare. Ma sono tre colonne, ma ti posso garantire che fa cagare. Ma questa cazzo di pizza. Se... te lo do io un numero dove la fanno buona quando si è a Sassari. E gappa, però per adesso ho trovato la pizzeria a tre colonne, posso dire solo per garantire che mi ha fatto una chiagata di pizza. Non era buona, dai, la prossima volta prendila da Obelix qua a Sassari, che c'è il numero di telefono su internet, e vedrai che mi torni la risposta. Ok, non c'è uscito il radio, Cappa, adesso mi senti, fa bene. Cappa, quando si assassina la prossima volta, chiama quelli lì che la pizza è più buona. Arrivo subito, due minuti, eh. Orrido, immangiabile. Oui. Ma la verità lì non li ho mai preso, però... Uiuia. Tanto che pizzeria è questa cattiva, tre colonne, e in dietro. Via Grazzeretta, No, non ho capito, fratello, dimmi il nome. Allora, la pizzeria Obelix, via Grazzeretta, è lì. La prossima volta, quando si assassa, richiamala, vedrai che te la porta buona. Non sarà Asterix. Obelix, via Grazzeretta, angolo via Nunzio Cervi, è lì vicino a Murittoni. Cappa, cappa, Roger, però la verità, la sua antenna mi fa paura, mi arriva al massimo, tira tutto rosso. Allora è giusto. È già un grido, ya, che arriva al massimo. Non è che arriva al massimo, mi stira proprio una fiamma che arriva dentro la mia antenna che mi diventa rossa al dinaro 10 vostro, pazzo. Da me sei vicino, già non credo che arrivo forte. Ma lo conosci chi è o... Cioè, ha parlato in radio pure in passato, mi... Oh, Zoe... Il fratello di Anima Lunga, di San Vedio, te lo ricordi? Cappa, cappa. No, sto dicendo a cosa, a Marco. Ma io Antonio non conoscevo né Saverio né niente, non mi ricordo, noi stavamo tra coetanei tanti anni fa barricati sul canale nostro e da lì non uscivamo, eravamo piccoli, sto parlando degli anni 80, metà anni 80, da 85 in poi, dai. Cappa, comunque io la prendo lì, la pizza è buona, te la posso garantire. Non so perché ho detto Asterix, perché Asterix la conoscevo come pizzeria, hanno fatto pure Obelix, insomma, è il compare di Asterix sarebbe, no? Cappa, già c'è un giorno già. Ma sai, lì non frequento lì, grazie ad Eledda. Poi ce ne sono talmente tante, tanto di pizzerie, che si fanno la forca uno con l'altra. tanti anni fa, decenni fa erano pochi, adesso a ogni angolo di strada trovi la pizzeria, capito? Il comproro e 10 bar, tutti attaccati. Non so, ma io mi ero rotto di scatole. Mi ero rotto di scatole perché gli altri, quando a portarti la pizza era un casino, era. No, non si poteva. Buonanotte a tutta la turma di Sassari e di Dicco, che siete una banda di ciurma di... A un bacio. Formati dal binario 10, passo la massima. Buonanotte. Ciao, buonanotte anche a te. Cappa. Ma non forte ti sto arrivando, vero? Marco. Ehi Anton. Sì, allora sto usando un baraccocco che ha lo Schmitter a LCD, no? Cristalli liquidi. Però è anche generoso, quindi tutti quelli di Sassari, città, siete tutti 9.30 incollato. Da lisci, quindi non posso nemmeno fare la prova comparativa. Comunque la modulazione è buona. E dicevo Anto che devo scappare, che mi sto anche, devo andare in bagno, devo cambiare l'acqua alle olive, mi sta scoppiando la vescica, dai, sentiamo, alle prossime, corretto esecutivo, un bacione a tutti, ciao, riprendi Antonello se ci sei ancora. Natalino, ci sei? Anche Natalino. Natalino? Anche Gianni c'era, ce lo siamo dimenticato, sì, perdonaci Gianni. Ma che Gianni lo più ruce? No, Lubrofetta. L'abbiamo chiamato ma non esce a pizzo. Magari è rimasto in bianco e si è rotto le scatole di aspettare. E io ogni tanto mi distraggo, non riesco a tenere. Non riesco a ordinare la ruota, mi dimentico chi entra, chi esce, capito? Non sono molto concentrato quando c'è una ruota. E poi abbiamo il vizio, in effetti, lo riconosco che anche a me è venuto il vizio di avere il ditino veloce, non lasciamo nemmeno un secondo di bianco, ma non un decimo di secondo di bianco, che abbiamo già premuto la portante. La pisciare, vai, io muoviti cazzo però, muoviti cazzo, Marco. Ehi, vado al cesso, ciao, QRT, ciao, un bacione a tutti, ciao. Oh, questo è un corno, so che metto la portante domani. Vai a pisciare i denti. Mi faccio schiattare! Antone, ti devi attrezzare che Antonio ti distrugge. Ti faccio schiattare, ti faccio cillocci di fuori. Ma così è, Antonio. Allora, vai, bucci grosso, cosa te ne prende? Attacchi. Antone, a parte gli scherzi, quando parlate assieme Antonio ti cancella, non ti sento nemmeno sotto, Antone. Già lo so, ci mancherebbe, è vicino a te, scusami, a un certo punto. Non ti preoccupare, Antone, in senza marcia, ti faccio schiattare. Antone, non è vicino nemmeno. Ok, ciao, non riprendo, ciao. Mi fa arrabbiare, mi... Ti faccio cillocci di fuori. Non tu, no. Marco mi fa arrabbiare. Io tu, se la manca fra 5 minuti, non ti faccio la modifica. Quindi io tu. Vai, sto scherzando, va. Marco, rientra, se ti pisci addosso stanotte, guarda, ti pisci dentro al bagno, ti pisci, te lo dico io. Sì, capo, abbrizio sotto, ci sente. La mazza che tiene faria. Mettiti il pannolone, Antonello, il pannolone, quello per gli anziani. Adesso non mi sempre tranquillo. Che conto un attimo lineale, tutto sotto, no? Eccolo qua, sotto lo sonno. Allora pigliavo un gomile la stazione di Pomponio. Va, mi state rompendo di tutte le palle questa sera. Attaccare tutto. Faccio cilocci pura. calmi, tutti e due. Da dove siamo noi vediamo l'esplosione tipo Chernobyl, me. E poi vediamo anche la scia di ionizzazione dell'aria, capito? In verticale, sull'asse dell'esplosione. Allora faccio un tubo domani mattina, almeno quello di buono. Vai tranquillo, là. Facciamo i bravi, i seri. Va bene così. Hai visto? Io faccio per bene, cazzo, mi sono fatto con la pure, tutti e due. Cani morti, tutti e due, guarda. Ah, adesso ho messo basso, va. Marco, tu non sai più che sai niente, no? No, dunque Fabrizio entra un bel cuore. Cosa? Io lo sento. Come Fabrizio? Sul 20, minchia, ma a me mi arriva talmente forte a cannone che io lo sento un po'. Ma non è un problema, lo sento, però poi mi sento lo stesso. Vabbè, c'è anche un po' di squelci inserito. Un altro baracchino magari non lo sento, ma lunghissimo. Ma questo già ne prende colpini. L'anno 87, che strano, oppure è abbastanza selettivo, Certo, non è un amatoriale, ma è abbastanza selettivo. E cosa si può fare? Purtroppo è così. E ci ne esco che c'è qua, Guarda che io proprio non ne pigliavo la penta, specialmente da Claudio, quindi avevo che è strano. Se non ti avevo detto Marco da prima, a un certo punto è stata una cosa che tu pigli copia da Fabrizio. Ah, vabbè, adesso ho capito, c'è il fronte, lo capite tu, a via Italia, non è che sia molto distante, no? Marco, un chilometro, figurati. Se voi arrivate dopo 40, dove non ci guarda, non credo io che ne intendo. Qua allora, da quella zona lì, da via l'Italia in poi, sono tutti forti, sono qua. Tutti. Facciamo la brave. Sono tutti forti qua. E appunto, nella l'aria, San Pietro, più che altro. Se ti arrivo dove abiti tu, siamo di fronte. Questo è poco ma sicuro. Qua non lo so, è quella zona è favorevole, la zona dell'ospedale. La zona dell'ospedale, come si dice? Tutta quella zona lì. E infatti cosa mi arriva un bel forte anche. Come si dice? Ma adesso non mi viene. Daniele, mi arriva forte proprio qua. Perché sono tutto favorevole in quella zona. Ce l'ho proprio favorevole. Per quello. Ma Daniele non è più entrato, sta lavorando. Ogni tanto entra. Io ero impegnato. E io una volta entravo anche dal mezzo mobile, anzi spesso e volentieri era più dal mezzo mobile che da casa. E vabbè, gli impegni sono impegni, d'altronde mi. Chi c'ha lavoro se lo tiene stretto, pure in questi tempi non ne parliamo. Per carità, che periodo brutto, guarda. Ok. Dai, non riprendo, Antonè, quante volte l'ho detto? 5, non riprendo, quello è il tuo esecutivo. Strano quando siamo mai dei Filippi, ma. Pucci. No, ciao già. Eia. C'è Antonello, c'è Antonio. Mi pare di attivare tutti, Claudio ha chiuso. E non siamo rimasti molti, Comunque Anto, ho provato a togliere lo squelch. Sento il normale QRM di fondo, elettrico, QRM elettrico, ma non sento nulla io, Ne ho due vicini, io c'ho Marco abbastanza vicino e lo stesso coso è sparatissimo, Fabrizio è sparatissimo qua, però non sento un disturbo, nulla. Qua lo sento, ciao già, buonasera. Gianni? Che succede già? No, è già esaurito. No, è un segnale 9, abbassato il segnale, c'è qualcosa che non va. Figurati tu. Gianni, che succede? Ma doppio room, io mi riferivo a Gianni doppio room. Sì, sì, sì. È entrato e poi, cioè, quando segnava il nome, l'ho sentito e poi non l'ho sentito più. Mi hanno staccato la luce, te lo dico io. E ti vuoi? No, no. Ma io sto facendo delle prove ulteriori. Bisogna vederne a capo di quella cosa lì, però. Però la cosa strana è che lo faccia solo con un apparecchio, solo con un apparato. Boh, non sempre. Mi pare quando, in teoria quando piove, è tutto da verificare, dai. Poi è una rottura di palle ogni volta, salire, mettere a posto antenne, cambiare cavi. Per me è una rottura di scatole immane. Vabbè che mi fa tutto pomponio, se strampa giù, se cade, già cade lui dal palazzo, dal tetto. Non seguo tanti fiori, io preferisco guardare i fiori dei fiori di rotto, diciamo, quello, se no, cosa posso dire, carciofi, una bella pianta di carciofi, guarda, pezzano, basilico, posso dire, il fiume lo voglio, allora, faccio più pezzo con un basilico, come ti posso dire, pesche, una bella pianta di pesche, guarda, mi sta bene, va bene giù qua, ogni tanto passa quel coglione, cazzo piglia una pesca, cazzo ci rimane secco. Attone, perdonami, sai che sono stanco io, forse sei più stanco tu, ma non ti seguo. Io ricordo solo che quando sei salito sul gabbiotto per tirare su il palo, io ci avevo già le mani in testa, ho detto, mamma mia, scendi, scendi, è pericoloso. Io poco le temo l'altezza, ma è più forte di me. Già lo so, ma sta succedendo, a me mi sta bene, ma a un certo punto, si è la verità, quando sono preso per tetto, per riperdua, quello che ci può accettare, una pesca, una pesca, ma, no, anzi una pesca no, di muore, che va meglio, di muore. Scivola meglio. E cosa sei lì scigliente a te? Questo viene sopra, no? Non pensare che ci devi giù, tu sei Marco, sì. Dai, ci rinuncio, no, fate scherzi, adesso qua, sono le 9. Allo bacio. Dai, adesso inizia il film. E se non inizia il film me ne metto uno dei miei. Io saluto tutti. E sentiamo in migliori occasioni, dai. Ciao a tutti, Gianni sta all'ascolto, ancora Antonello, Bombolo, tutti quelli all'ascolto, ciao, buona serata. Aiuta, stavo scherzando, lo sai, aiuto, rimani un pochettino, dopo che 10 minuti, va, dopo che andiamo tutti via. No, Antonio, a parte gli scherzi, io ti sento poco bene, perché sei saturo, cioè più ti dico che sei saturo, più sei buon pendi, che so che ti dica. Siamo lì, adesso. Poi lo faccio schiantare. 10 minuti, e vabbè, mi senti adesso? Sì, così esci bene. Ok, ma perché cosa mi devi dire? Facci compagnia più che altro, là. Lo chiamo tutti, là. A un certo punto, un per l'altro. Rimani 10 minuti e dopo che andiamo via tutti, stanotte. Intanto, che cavolo qui ci sia, a un certo punto a quest'ora? Nessuno. Quindi, chiamo tutti e va a far cuffia. Antonello, a un certo punto... C'ha ragione, vero? Pompa, che barrato, adesso domani vedrai come ti faccio quel cavolo di piccio 50. E a chi canto so che arrivendi in Kiwi? Ma adesso ne vado bene, la verità si dica, comunque sia... Già lo so Marco, l'ho sentito un giorno il piccio 50 modificato da me. Dopo che batte, cazzo, sembrava che si era attaccato un lineare a un certo punto. 10 mili di volagno, una radio allucinante, con il microfono normale. così va bene, vedi, alliato così com'è, lineare va veramente bene, non c'è bisogno di dirmi tante cose né niente. Ui ui ui. Mangia, pianta. E a chi? Trucchendie. Ma come cagli rimane c'ha cosa? Già esci bene. Vabbè, adesso bisogna aspettare la topografia perché altro, no? Comunque sia. Ciappa. Sì, ciappala. Yuhuhu! Fai sesta marcia, com'è? E non può fare molto, io non so che poi ti fa dire che è la frequenza. Mentre